Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo chiaramente della relazione annuale della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ultima relazione del presidente Vegas. In realtà ha toccato anche e soprattutto i temi di carattere macroeconomico. Il rischio, in realtà, più che un rischio, è una certezza, secondo Vegas, che l'Italia dovrà preparare una stretta monetaria della Banca Centrale Europea. Prima o poi avverrà, perché l'inflazione si sta progressivamente riportando in prossimità dell'obiettivo del 2%. Un Italexit sarebbe uno shock per l'intera area euro, ha detto Vegas. E poi il bail-in si è, e quindi il modo in cui vengono fatte fallire le banche, la gestione dell'eventuale fallimento di una banca, ne abbiamo parlato molte volte, che chiama in ballo chiaramente, oltre che gli azionisti, gli obbligazionisti e eventualmente, forse necessario, i correntisti sopra i 100.000 euro, ha detto il bail-in si è rilevato un fattore di instabilità. Il primo bilancio di applicazione non può dirsi positivo. La fretta poi è una cattiva consigliera, ha detto Vegas, riferendo il commento alla cessione degli NPL in pancia alle banche, dei non performing loans, i crediti inesigibili. Dice: attenzione, non vanno svenduti per la fretta di ripulire i bilanci, altrimenti il rischio di una voragine nei bilanci stessi. I fondi esteri, quelli che noi abbiamo chiamato alle volte i fondi avvoltoio, fiutano un grande affare. Tradotto, se le banche hanno fretta e sono sotto pressione per cedere questi crediti inesigibili che magari a bilancio hanno a 40, e il fondo cosiddetto avvoltoio gli offre 20, se tu hai fretta li svendi aumentando quello che è la tua voragine in bilancio. Dice Vegas: attenzione, vanno venduti senza la pistola alla tempia, aggiungo io. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, come sempre trasmessi anche su RDS. Oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Poi le altre notizie in breve, la lista dei temi, anzi l'anticipo subito, oltre ovviamente che la relazione, oltre alla relazione Consob, parleremo anche dell'effetto economico, non c'è moltissimo oggi sul mercato, della vittoria di Macron. Faccio notare che la borsa peggiore è Parigi, meno 0,90%, Milano perde lo 0,30%, Francoforte è invariata, Londra più 0,15%, Dow Jones meno 0,10%, Euro 1,09%, non molto mosse appunto le borse. In realtà ci sono varie reazioni da Angela Merkel, ma anche reazione un pochino più critica, non sulle elezioni di Macron, ma sulla gestione dei conti francesi da parte del presidente Juncker, e quindi mi riferisco da parte, insomma, come giudizio di Juncker, presidente della Commissione europea, che ha detto la Francia spende troppo e nei posti sbagliati. Comunque, questo è nell'ordine i temi. Andiamo subito con i 100 secondi, dicevo, dedicati appunto alla relazione, l'ultima relazione del presidente della Consob Vegas. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ci sono due elementi che meritano attenzione nella relazione annuale tenuta oggi da Giuseppe Vegas, presidente della Consob, organo di controllo sui mercati finanziari. Il primo elemento suona come un monito al governo e alla politica, perché, ha detto Vegas, stanno per finire i tempi del sostegno monetario garantito dallo scudo della BCE, una lunga fase di tassi bassi, spesso sotto zero, che doveva essere impiegata per fare le riforme e recuperare recuperare terreno sul piano della competitività. Purtroppo il nostro paese ha sprecato questa opportunità. Ora, seppur lentamente, andiamo verso un nuovo scenario nel quale non potremo più contare sull'aiuto della BCE e per questo, secondo Vegas, è decisivo approfittare di questi ultimi mesi per realizzare le riforme annunciate ma mai attuate. Vegas è poi tornato sul tema del bail-in bancario, ovvero il coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e risparmiatori nel fallimento di una banca. Il bilancio del primo anno di attuazione del bail-in, ha detto Vegas, non può dirsi positivo per due motivi. Primo, perché non si è valutato bene l'impatto delle regole sui piccoli risparmiatori. Poi, perché è stata infelice la scelta di adottare la nuova disciplina con effetto retroattivo. Il messaggio di Vegas però è molto chiaro. Questa normativa va corretta quanto prima e bisogna farlo introducendo una soglia di salvaguardia da 100.000 euro anche per gli obbligazionisti, esattamente come già previsto per i correntisti. È un passo importante. Vedremo se l'Europa saprà ascoltare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo con le altre notizie in breve, partiamo dalla borsa, poi ne parleremo per quello che riguarda la Francia, ma devo dire poco mossa oggi le borse, come ricordavamo. Azimut più 2%, Mediaset più 1,13, Unipol più 0,80, Ferrari più 0,70, Banca Generali mezzo punto percentuale come Eni di rialzo, Moncler invece di nuovo realizzi, visto che aveva toccato la settimana scorsa valori record, meno 3%, Biper Banca meno 2%, Ferragamo meno 1,90, Buzzi Unicem meno 1,80, Hughes Santa Porte meno 1,60 come Case New Holland, Ubi Banca meno 1,40, Campari meno 1,20 come BPM. Dunque, vedo che molti stanno scrivendo al 349-238-6666, che è il numero come sempre per SMS e WhatsApp, riguardo alla vittoria di Macron. Mi ricordo benissimo come 2 settimane fa il nostro ospite Giulio Sapelli, il nostro uccellaccio, avesse previsto una netta vittoria della Le Pen. Ha sbagliato, adesso lo avremo ospite. Invece vi fu chi la settimana scorsa, e mi riferisco a Gianluigi Paragone, la previsione la fece con una vittoria di Macron. La vittoria di Macron è indubbia, è anche superiore all'ultimo sondaggio, quindi una volta tanto i sondaggi hanno sbagliato, ma per difetto, non per eccesso. Adesso vedremo poi tutti i temi, a partire dalla composizione del Parlamento, dalle elezioni per la composizione del Parlamento, e poi quella che sarà, diciamo, la squadra di Macron. Ma ne parliamo tra un attimo. Invece segnalo, al di là dei casi, diciamo, francesi, per quello che riguarda l'Italia c'è stato anche un incontro tra oggi il ministro Calenda e uno dei 3 commissari dell'Italia. I commissari vanno lasciati lavorare oggi, vedrò gubitosi alle 2, hanno anticipato questa mattina Calenda per fare un punto della situazione. In uscita a margine di un convegno dedicato al terzo tempo della riforma della pubblica amministrazione, Calenda ha anche risposto sì a chi gli chiedeva se nel 2008 lui, se fosse stato ministro, avrebbe favorito l'accordo con Air France. Lui ha detto sì, l'avrei favorito. Ricorderete che c'era stato l'accordo, la proposta di accordo con Air France dell'allora governo Prodi, che però era uscente, poi bloccata dall'entrante governo Berlusconi, la famosa pattuglia di CAI, che ancora ha il 51% dell'Italia, degli imprenditori italiani. Comunque, per quello che riguarda invece, restiamo sull'Italia, faccio notare che oggi sono arrivate notizie proprio da dove noi trasmetteremo in diretta domani. Oggi ci sono altri programmi. Mi riferisco a Tutto Food, alla fiera di Milano Ro, fiera internazionale del food and beverage, quindi dell'alimentazione, del cibo e delle bevande, organizzata fino all'11 maggio, dedicata agli operatori del settore, 2.900 espositori, dei quali 500 esteri, oltre 3.000 buyers dall'Italia e dall'estero, con le delegazioni più numerose che provengono da Stati Uniti, Canada, Sud America, Germania e Paesi del Golfo. Attesi 80.000 visitatori. Ripeto, domani noi saremo in diretta da lì, però oggi all'inaugurazione il ministro Maurizio Martina ha anticipato che è stata avviata la procedura formale di notifica dei decreti di Martina e di Carlo Calenda per introdurre in Italia l'obbligo di indicare le materie prime per riso e grano per la pasta. E quindi sono già stati avviati alla Commissione Europea. I decreti prevedono per il riso l'indicazione del luogo di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. Se le tre fasi si svolgono nello stesso paese, si può utilizzare la dicitura origine del riso Italia. E invece per i pacchi di pasta si prevede il luogo di coltivazione del grano e quello di provenienza della semola. Perché è importante questa notizia? Perché soprattutto nel riso, ce ne siamo occupati, i produttori di riso italiano stanno vivendo un dramma da quando la Commissione Europea, sbagliando totalmente a mio avviso, ha eliminato alcuni dazi per l'importazione del riso dalla Thailandia e dal Vietnam, tant'è che le esportazioni di riso vietnamita in Italia sono aumentate del 346% nel 2016. Il problema qual è? Che alcuni fanno i furbi, tra virgolette, cioè adesso se arriverà l'obbligo non c'è niente di male, però almeno scriverai riso proveniente dalla Thailandia, riso proveniente dal Vietnam. Almeno si cerca di mettere una pezza, una decisione a mio avviso sbagliata della Commissione Europea, anche perché il produttore di riso principale in Europa siamo noi, e sai che gliene frega, lo dico senza nessun rispetto, a Bruxelles, come spesso accade, se vai a danneggiare un paese quando gli altri paesi sono importatori netti di riso, anzi ne producono zero. La Spagna produce qualcosa, ma l'Italia è di gran lunga il più grande produttore di riso in Europa, tra l'altro, e questo dovrebbe cercare almeno di, non dico di aggirare, ma di tamponare quello che è stato il problema creato dalla Commissione Europea. Nel frattempo, sempre in tema di Made in Italy alimentare, ma Made in Italy in generale a questo punto, lo dico perché oggi gli Stati Uniti si sono confermati il principale mercato di sbocco del nostro Made in Italy, come ha ricordato sempre il ministro Calenda in occasione dell'accordo siglato da Lice e della statunitense Walmart. Lo ha fatto all'interno di Tutto Food, si è svolto questo accordo all'interno di Tutto Food. Walmart, per chi non lo sapesse, è la più grande catena della grande distribuzione negli Stati Uniti, tant'è che si dice che c'è l'America di Wall Street e c'è l'America di Walmart, a segnalare la differenza tra l'America, diciamo, l'uomo della strada, che è quello di Walmart, e l'uomo che viveva soprattutto prima del 2008, ma anche adesso, così, in un altro mondo che era quello di Wall Street. Secondo Calenda, l'intesa sancisce il successo della strategia adottata con il piano straordinario per il Made in Italy, che ha portato sinora negli Stati Uniti un ritorno pari a 15 volte l'investimento effettuato. È un investimento in cui noi andiamo a non pagare, ma a finanziare anche in qualche modo il fatto che i prodotti italiani vengano posizionati nella parte migliore degli scaffali nelle grandi catene distributive americane. A mio avviso è un accordo importantissimo. La Francia su questo, diciamo, ha una lunga esperienza. L'accordo con Walmart va in questa direzione, tant'è che negli ultimi due anni sono stati chiusi con successo 10 accordi con 7 grandissimi operatori della grande distribuzione americana, che hanno portato all'introduzione di 368 nuovi fornitori e 1200 nuovi prodotti italiani sugli scaffali americani, ripeto ancora una volta, delle grandi catene di distribuzione. Calenda ha ricordato che grazie al lavoro dell'ICE oggi le eccellenze agroalimentari italiane potranno contare anche sui 3600 punti vendita di Walmart. Guardate che i francesi, per piazzare i loro prodotti, fanno esattamente questo, con la differenza che loro hanno già le loro catene Carrefour, Auchan, ma quello servono. Quindi se si fa un accordo con Walmart per piazzare i nostri prodotti in 3600 punti vendita, bisogna solo applaudire. Comunque, il nostro Nicola Scevola ha raggiunto, a margine appunto di questa presentazione dell'accordo, il presidente dell'ICE a Tutto Food, Michele Scannavini. È un accordo importante. Walmart è la più grande catena di retail degli Stati Uniti e del mondo, ha 3600 punti vendita, in cui verranno venduti questa collezione di prodotti italiani sotto una marca privata che sarà concentrata sul cibo autentico italiano. Quindi è l'opportunità per tanti piccoli e medi imprenditori di affacciarsi su un mercato promettente e importante in termini di volumi come gli Stati Uniti, opportunità che presi individualmente da soli non avrebbero potuto sfruttare, invece attraverso questo progetto con Walmart avremo la possibilità di dare questa opportunità alle nostre piccole aziende produttrici di cibo. Che genere di prodotti si tratta? Prodotti abbastanza tipici del Made in Italy, quindi parliamo di pasta, parliamo di conserve, parliamo di vino. E parliamo anche di altri prodotti che verranno selezionati da Walmart qui in occasione di Tutto Food. Walmart ha portato 18 rappresentanti, 14 dagli Stati Uniti e 4 da Regno Unito, che fa un po' da buyer per tutto il mondo, e incontrerà diversi fornitori per fare una selezione di altri fornitori e altri prodotti. Questi sono accordi che credo che facciano molto bene all'immagine e al volume d'affari delle aziende italiane. Se noi pensiamo che sul food abbiamo fatto negli ultimi 2 anni 10 accordi con la grande distribuzione che hanno generato 45 milioni di fatturato aggiuntivo verso 5 milioni di investimento pubblico, quindi un moltiplicatore 1 a 9 che credo sia un risultato importante. Dunque, andiamo, ci avviciniamo alla Francia, però prima un paio di risposte. Qualcuno mi scrive, ma insomma lei sta lisciando il pelo a Calenda un po' troppo, non riesce a trovare una critica. Un altro mi scrive, ma vada a fare il portavoce di Calenda. Oh, no, hic manebus optime, qui stiamo benissimo. Però, allora, fatemi citare un'altra cosa e poi do una risposta, perché la Coldiretti oggi, sempre per presentare l'apertura di Tutto Food alla Fiera di Milano, ha fatto notare come vi sia stato nei primi mesi del 2017 un record storico delle esportazioni di prodotti agroalimentari made in Italy. Nei primi mesi del 2017 hanno fatto segnare un più 10%, e faccio già notare che vi era stato un record storico nel 2016, 38,4 miliardi di euro. Tra l'altro il prodotto più apprezzato è il vino, che da solo ha fatto 5 miliardi e 600 milioni di export l'anno scorso. Frutta fresca trasformata 4 miliardi e 600 milioni, ortaggi freschi trasformati 3 miliardi e 700 milioni, i prodotti di animali, carni e salumi, con buona pace dei vegani, massimo rispetto per vegetariani e vegani, non quando diventano nanzi vegani, valgono per questo paese 3 miliardi all'anno di esportazioni, latte e derivati 2 miliardi e 7, pasta 2 miliardi e 3 e olio d'oliva 1 miliardo e 200 milioni. E gli Stati Uniti, appunto, primo mercato dell'Italia nell'agroalimentare fuori dall'Europa, il terzo dopo Germania e Francia, prima anche della Gran Bretagna, sono gli Stati Uniti per noi come export. Quanto a Calenda, insomma, io non capisco questa cosa, è come quando apprezzo Mario Draghi, qualcuno mi dice lei deve fare il portavoce di Mario Draghi, ma viste le critiche che facciamo spesso, anche al governo e anche alle scelte dell'esecutivo, se c'è un ministro che fa delle cose che ci piacciono e mi sembra che abbia una grossa sensibilità sul Made in Italy, sulle imprese, sugli accordi da fare, guardate che l'accordo, i soldi messi per agevolare il posizionamento dei prodotti italiani nelle grandi catene di supermercato americane, un accordo importantissimo, perché bisogna conoscere quei mercati. L'America, gli Stati Uniti sono un mercato in cui, eccezione fatta forse per New York e poco altro, tutto viene acquistato nei grandi centri commerciali, nelle grandi catene della grande distribuzione. Non esiste nell'America, diciamo, fuori dalle grandi città più europeizzate, il negozietto sotto casa, per capirci. E quindi un accordo che, sì, noi diamo dei soldi di promozione perché i prodotti italiani vengono messi e ben posizionati, o magari anche solo posizionati, visto che in alcuni casi nemmeno c'erano. Se Calenda si muove bene, bravo Calenda, ma che me frega. Allora, e questo per quello che riguarda anche Tutto Food. Andiamo adesso sulla Francia e sulla vittoria di Macron, visto che la borsa praticamente ha chiuso. E allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dai, vediamo la notizia, ha vinto Macron, a parte gli scherzi, ieri una bella e lunga diretta dalle 19 in poi, anche Radio 24. Ha raccontato la vittoria di Macron, 39 anni. Io penso che se c'è una cosa su cui Macron non ha bisogno di descrizioni e illustrazioni ulteriori è la sua vita privata, l'età, da dove proviene, tutto si è detto, a partire ovviamente dalla sua moglie e quant'altro, ma insomma 66% dei consensi, 20 milioni di voti contro il 33,9% della Le Pen, alta l'astensione 25%, 3 milioni di schede bianche, 1 milione di schede nulle, quindi 4 milioni tra bianche e nulle. Macron ha prevalso in tutti i dipartimenti, con l'unica eccezione nella zona di Calais e di Aisne nella Francia del Nord. Calais, insomma, immaginabile anche perché con quello che ho dovuto affrontare sul fronte immigrazione. Devo dire che il nord della Francia, Calais e Aisne, sono da sempre l'area più conservatrice, insomma. Basta ricordare, chi si ricorda la storia, cosa fu la Vandea dopo la Rivoluzione Francese. Ma detto ciò, a Parigi il 90% dei voti a Macron, il 10% alla Le Pen. Domenica prossima il passaggio ufficiale dei poteri tra Macron e François Hollande, e Macron ha già fatto sapere che la sua prima visita all'estero sarà a Berlino, e questo è già un segnale. Europa, la parola d'ordine che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale di Macron. Stasera la Francia ha vinto sotto le note, diciamo, dell'inno della nonna di Beethoven, e quindi dell'inno europeo. E appunto Europa l'ha ripetuta moltissime volte Macron nel suo primo discorso ieri alle 21:03, una cosa del genere. Ascoltiamo questo passaggio. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donné les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. Oddio mio, no, non è un commento a Macron, è un commento che dice: ma la Vandea, guardate che ho detto semplicemente che il nord della Francia è tendenzialmente più conservatore. La Vandea so anch'io che sta da un'altra parte, ci ho pure studiato per pochi mesi, e quindi una a ovest, l'altra a nord-est. Ho solo detto che non deve sorprendere che Calais e una parte nord della Francia siano le uniche aree in cui Macron non ha vinto nei vari collegi. Comunque, in collegamento con noi da Parigi c'è Sergio Nava, reduce anche dalla lunga maratona di ieri sera e di oggi. Buonasera Sergio. Buonasera Sebastiano. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, le reazioni internazionali in primo luogo, poi tu hai raggiunto, vorrei che tu ci facessi ascoltare anche un'intervista sulla parte del programma economico di Macron, perché di questo vorremmo occuparci, ma le reazioni internazionali in primo luogo, Angela Merkel, Juncker oggi critico non con Macron ma con la Francia per come spende i suoi soldi, e poi analizzeremo anche la borsa. 349-238-6666 sms e whatsapp. Ancora un po' di pazienza, c'è il meteo e la pubblicità. La natura di prima mano vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Oh, l'inno alla gioia con cui Macron ha aperto la sua prima dichiarazione da neopresidente francese, o meglio il passaggio di consegna, appunto, come ricordavamo, avverrà domenica prossima. Allora, Sergio Nava, le prime reazioni di carattere internazionale, Angela Merkel, cos'è che ha detto? Speranza per milioni di francesi. Beh sì, diciamo che l'elezione di Macron è stata accolta, per quanto ormai attesa, sia stata decisamente accolta con un sospiro di sollievo un po' dappertutto, in primis dalla Germania, che chiaramente vede nella Francia un alleato ancora stabile, perché in caso di vittoria Marine Le Pen, insomma, sarebbe un po' caduta l'altra gamba dell'asse, anche dalla Commissione europea, anche se c'è stata, lo accennavi tu, una critica di Juncker che dice la Francia spende nei settori sbagliati, anche Trump si è congratulato con Manon Macron, quindi in generale la comunità internazionale ha accolto con un certo sospiro di sollievo, potremmo dire, un'elezione che interrompe la serie negativa Brexit, se vogliamo, tra virgolette, anche Trump, per come è stata accolta la sua elezione, ricordiamolo tutti, lo scorso novembre, insomma, una serie catastrofica sotto un certo punto di vista geopolitico, interrompe tutto, addirittura inverte paradossalmente la marcia, perché l'hai fatto ascoltare tu, l'inno alla gioia, è stato veramente un inizio a sorpresa dell'arrivo, che ha accompagnato l'arrivo di Macron. Allora, e per quello che riguarda, insomma, a parte poi che ci sono tutte le reazioni anche di casa nostra, mi interessano meno, c'è un botta e risposta Berlusconi Salvini, perché Salvini dice se il cavaliere va con Macron si scode l'alleanza con noi, pessima scelta di Berlusconi, invece Berlusconi che ha detto le elezioni di Macron è una cosa buona, e è convinto che questo risultato ci consolida nell'andare verso la ricostruzione dell'Europa. Vabbè, ma la parte di politica economica, le politiche economiche del neo presidente o quasi presidente formalmente della Francia, Sergio. Sì, allora, ricordiamo innanzitutto che lui ha una vocazione abbastanza riformatrice, lui è conosciuto come un liberale se vogliamo con origini a sinistra, cioè chi lo definisce social liberale. Sì, allora fammi fare la battuta, origini a sinistra, portafoglio a destra, visto che ha lavorato nella banca d'affari Rothschild per lungo tempo. Però è una creatura appunto abbastanza unica nel suo genere, possiamo dirlo. Anche, ricordiamo, ha lavorato come ministro dell'economia per Olanda, quindi comunque certo, è stato segretario generale dell'Eliseo, quindi ha giocato anche un ruolo dietro il quinto importante nel salvataggio della Grecia, ci raccontava sabato Enrico Letta che abbiamo incontrato a Parigi, e dietro di quinto è stato lui che ha lavorato anche per evitare che la Grecia uscisse dall'euro. Sul fronte riformatore lui vuole un po' indebolire, se vogliamo, le famose 35 ore, privilegiando gli accordi negoziali anche a livello di imprese. Vuole un sistema universale di assicurazione contro la disoccupazione finanziata dalle imposte, universale di pensione, e investire 50 miliardi di euro nella formazione dei disoccupati e dei giovani senza qualificazione. Queste sono alcune delle sue misure che propone, tra le altre anche esonerare l'80% delle, diciamo, quale sarebbe in Italia l'IMU, esonerare l'80% dei proprietari di casa dalla tassa sull'abitazione. Queste alcune delle proposte. Per andare nel dettaglio, però, noi oggi, questa mattina, abbiamo incontrato Jennifer Tizzicara, che è segretario generale della Fondazione Concordia, una fondazione, un think tank economico liberale di Parigi, che tra l'altro, grazie ad alcuni economisti francesi, ha realizzato uno studio sui programmi elettorali in materia economica dei candidati, tra questi anche quello di Emmanuel Macron. Possiamo sentire. Emmanuel Macron propone di due assi, prima delle riforme strutturali, per esempio le riforme delle pensioni, del diritto del lavoro, della riqualificazione e anche una riforma di disoccupazione, e questa è una buona cosa. Fa anche una proposta di rilancio del potere d'acquisto, per esempio con l'esonero della tassa sulla prima casa. Voi avete fatto uno studio per analizzare i programmi economici dei candidati e nonostante Emmanuel Macron abbia una tendenza liberale, quindi anche vicina alla vostra fondazione, avete trovato sia degli elementi positivi ma anche negativi nel suo programma. Ce li può spiegare? Sì, è vero che ha degli elementi vicini della nostra fondazione, però la critica che possiamo fare è che per finanziare le misure di Emmanuel Macron mancano quasi 50 miliardi di euro, tutti sanno che siamo in una crisi delle finanze pubbliche e la domanda che abbiamo è, la questione che abbiamo è che chi va a pagare il rischio è che Emmanuel Macron rinuncia a qualche misura o allora aumenta le tasse per finanziare il suo programma. Quindi è un programma ambizioso ma c'è qualche problema in qualche modo, forse doveva dettagliare meglio, specificare meglio. Sì, non ha per il momento abbastanza dettagliato le misure di economie di risparmio per finanziare il suo programma. Ci sono anche elementi positivi che voi giudicate positivamente nel suo programma? Sì, pensiamo che le riforme strutturali del diritto del lavoro, delle pensioni, sono un shock di fiducia per l'economia e questo è positivo. Quindi abbiamo fiducia nel suo programma di economia. E un'ultima cosa invece è quello che voi come Fondazione Concord consigliate al futuro presidente Emmanuel Macron. Quali sono le misure su cui voi dite e sostenete che è importante agire per rilanciare la Francia? Diciamo che nel suo programma ci sono misure di rilancio del potere d'acquisto e alla Fondazione Concord pensiamo che bisogna abbassare le tasse sulle imprese per rilanciare l'economia. E, Emmanuel Macron propone qualche misure, ma dal nostro punto di vista non è abbastanza. Dunque, per permettere, per esempio, di rilanciare l'industria francese, bisognerebbe fare anche un shock di competitività per le imprese che esportano. Anche l'Italia ha cercato con gli ultimi governi di riformare, di rilanciare la sua crescita, la competitività. C'è un parallelismo, si può tracciare un parallelismo tra Italia e Francia in questo momento, anche difficile se vogliamo per le economie dei paesi del sud Europa? Diciamo che l'Italia ha condotto il Job Act e che è necessario per la Francia di avere la sua riforma del diritto del lavoro, penso che il parallelo può essere questo, però la differenza tra l'Italia e la Francia è che l'Italia ha ancora un'industria che esporta e la Francia ha un deficit commerciale che bisogna ridurre. Dunque per questo è necessario avere una politica di competitività per le imprese che esportano. Allora, Sergio Nava, un'ultima domanda per te. Tutti definiscono Macron come, appunto, al di là di quello che abbiamo letto, anche molto pragmatico, quindi può essere anche, è anche normale che su alcune cose non abbia ancora chiarito i dettagli del suo programma. Il rapporto però con la Germania, voglio dire, il rapporto con l'Europa, perché lui ha usato la parola Europa per la campagna elettorale, ma un conto è dire che sarebbe sbagliato diciamo far saltare l'Europa, un conto è dire che questa Europa vada bene ai paesi tranne che la Germania e ai paesi satelliti. Mi sembra però che dalle dichiarazioni di Angela Merkel, dal fatto che lui come primo paese visiterà la Germania, insomma, l'asse franco-tedesco, Macron spingerà molto sull'asse franco-tedesco, quindi chi si illude che Macron possa rappresentare le istanze dei paesi, diciamo, del Mediterraneo per un'Europa meno ragionieristica, più orientata agli investimenti, alla crescita e non solo al deficit, potrebbe restare deluso? Ma probabilmente chi pensa che adesso finisca l'austerità o comunque il patto di stabilità sicuramente rimarrà deluso, non è sicuramente l'intenzione di Emmanuel Macron e su questo ci sono pochi dubbi. Sicuramente però, e su questo potrebbe innescarsi un'asse interessante con l'Italia, si ricomincerà a parlare di crescita, di investimenti per la crescita. E un'altra cosa importante, un po' passato sottotono negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, Emmanuel Macron ha proposto ed è anche un portatore di istanze della creazione di un budget dell'Eurozona, di un ministro delle finanze dell'Eurozona. Quindi se riuscisse a portare questa idea, questo progetto nel canale tedesco, e già la Germania su questo si è detta disponibile a parlarne, potremmo vedere delle sorprese veramente interessanti nei prossimi mesi. Allora staremo appunto a vedere e vedremo anche le prime mosse. Ci sono molti ascoltatori che continuano a chiedermi di Consob. Adesso arriviamo alla Consob, un attimo di pazienza. Prima c'era la Francia, adesso c'è il traffico. Grazie intanto Sergio Nava in collegamento con noi da Parigi, da cui sta rientrando, dove ha seguito appunto le lezioni francesi per Radio 24. C'è il traffico, poi la borsa e poi arriviamo anche alla Consob. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. borsa. Mi sembra poche reazioni, diciamo, a un'elezione scontata dai mercati. Per carità, io non ci avrei messo la mano sul fuoco dopo quello che è successo con Brexit e Trump, però poche reazioni. La Francia, devo dire, è però la borsa più debole oggi, meno 0,90% contro Francoforte che fa meno 0,20%, Milano meno 0,20% anch'essa, Londra meno 0,1%. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Se le reazioni sono poche, insomma, andiamo subito sui titoli. Sì, oggi appunto la vittoria di Macron era abbastanza scontata, a Parigi la peggiore, d'altra parte ricordiamo che il CAC 40 si attesta sui livelli di inizio 2008, del gennaio 2008, dunque aveva fatto oltre il 7,5% di guadagno dal primo round elettorale e quindi oggi sono scattate le prese di beneficio. Ha fatto molto anche Piazza Affari, ma alla fine oggi i realizzi l'hanno portata in basso dello 0,26%, in questi 15 giorni aveva registrato un progresso dell'8,8%, ma rispetto al recupero messo a segno dagli altri listini è più indietro, visto che ricordiamo il FTSE MIB ha recuperato i livelli del dicembre 2015, mentre altri listini hanno recuperato i livelli che avevano segnato negli anni precedenti. Allora, questo per quello che riguarda appunto il dato complessivo. Azimut più 1,90, Mediaset più 1,35, Unipol più 1,1, Leonardo più 0,80, Terna pure, Ferrari più 0,70, Recordati più 0,60. Fronte opposto invece Moncler meno 3,40%, Biper Banca meno 2,5%, Ferragamo meno 2,30, Yoox Saint-Apporter perde l'1,80, Buzzi vince 1,70, Case New Holland 1,60, UBI Banca meno 1,40, come Unicredit, Campari meno 1,20 come il Banco BPM, Luxottica perde lo 0,40%. Mi sembra una debolezza generale sul fronte lusso, chiamiamolo così. Sì, assolutamente sì, a trascinare in basso diciamo tutto il comparto del lusso è stata Tod's, che ha accusato... Dove stavo arrivando, perché è la peggiore in assoluto, meno 10,96%. Prego. Sì, perché Tod's ha pubblicato appunto i conti del primo trimestre che sono stati considerati deludenti. Il fatturato è calato del 4,4%, ma soprattutto ormai il fatturato di Tod's sta deludendo gli analisti da un bel po' di trimestri. E peraltro anche i manager dell'azienda hanno detto che a questo punto le stime che circolavano tra le principali case d'affari sui conti di fine anno visti in lieve progresso sono sfidanti, quindi come a dire che probabilmente non saranno raggiunti, e quindi c'è stata anche una corsa di revisione al ribasso di tutte le principali previsioni da parte degli analisti delle principali banche d'affari. Ovviamente poi la performance di Tod's ha trascinato in basso tutto il comparto del lusso, che nemmeno a farla apposta invece era andato bene la scorsa settimana sulla scia dell'ottima performance del trimestre messo a segno da Kering, il colosso francese, e inoltre dal riassetto finanziario annunciato anche la settimana precedente dal LVMH. Così Moncler oggi ha lasciato sul parterre il 3,38% e la stessa Salvatore Ferragamo ha fatto meno 2,3%. È andata male inoltre Yoox Net-a-Porter, meno 1,8%, che non è un'azienda di moda ma comunque vende articoli di moda. Certo, e questo spiega appunto, visto che qualcuno mi chiedeva, il perché tutto il settore sia andato... abbia registrato delle perdite, per quanto molto diverse, dal 10,90% di Tod's. Ancora vorrei un commento su Mediaset invece, che oggi ha avuto una giornata, come si dice in gergo, altalenante, cioè ha cambiato segno più volte e alla fine ha chiuso con un più 1,35%. Sì, nel pomeriggio i titoli si sono risvegliati, sono iniziati una serie di flussi di acquisto, soprattutto perché gli analisti evidentemente e gli investitori scommettono che domani Mediaset pubblicherà una buona trimestrale con un risveglio della raccolta pubblicitaria. Domani infatti verranno svelati i conti, a borsa chiusa ci sarà anche la conference call da parte dei manager del gruppo che potrebbero dare delle indicazioni, innanzitutto sulle mosse ad esempio della famiglia Berlusconi. Pier Silvio infatti è l'amministratore delegato e dalle ultime settimane la famiglia Berlusconi è libera di acquistare titoli di Mediaset, di cui adesso detiene attorno al 41% circa del capitale. Sullo sfondo rimane comunque anche la speculazione sulle future mosse di Vivendi, che comunque entro giugno dovrà indicare all'AGCOM se stare in Mediaset o in Telecom, anche se si fa strada l'idea che magari il gruppo francese si giochi la carta del congelamento dei voti, quindi non venderà le azioni Mediaset, ma magari indicherà di congelarsi i voti superiori al 10%, quindi sì, circa il 19%, visto che detiene poco meno del 30%. Allora, per quello che riguarda Unipol, è salita di nuovo sull'indiscrezione che Unipol vorrebbe salire al 5-10% in Bper, ma forse è già salita. Bper, che a sua volta ha perso 2,5%, migliore e peggiore in assoluto, Safebag più 16, Bio2 più 12, Invest più 7,60, Green Power più 6%, Front Opposto, Tods, appunto, Mutui Online meno 5, Banca Ifis meno 4,70%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore. Andiamo su GR24 e poi parliamo anche di Consob. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla relazione della Consob, in un appuntamento in cui di solito noi il venerdì, dopo la poco invidiabile classifica, parliamo di start-up, vorrei aprire un brevissimo approfondimento proprio sul quanto oggi è stato fatto al Ministero della Salute con la premiazione dei vincitori della seconda edizione di BioApp, perché un'iniziativa che riguarda gli start-up è promossa da Novartis Italia e Fondazione Cariplo, con il Politecnico di Milano come incubatore e anche il gruppo ospedaliero Humanitas, perché la collaborazione viene fatta con il cosiddetto Poli Hub. Tre i vincitori premiati dal Ministro della Salute Lorenzin. Una volta tanto che abbiamo anche delle buone notizie, le diamo più che volentieri: sono Postbiotica, Pro Biomedica e Caime, spero di pronunciarlo bene, nanotecnologie. I primi due sono trattamenti terapeutici, la terza riguarda le nanotecnologie, scelte in una rosa di 10 finalisti. Paolo Marcheselli, che ha curato per Novartis anche la selezione, poi l'arrivo dei candidati alla finale, buonasera. Buonasera a lei. Che caratteristiche hanno i premiati e qual è la finalità di questa iniziativa? Anche perché, se ho ben visto, i tre team vincitori hanno vinto un voucher da 50.000 euro ciascuno, che deve essere speso per sviluppare la propria startup. Lì, per se stesso non sono tantissimi soldi, ma possono essere un aiuto. In base a che cosa li avete scelti e qual è l'obiettivo finale? Ma guardi, l'abbiamo scelto con diverse caratteristiche. La prima caratteristica è la possibilità di portare queste idee sul mercato in modo concreto. Una delle problematiche che sconta il sistema paese è proprio quella di avere dei scienziati di eccellenza che sono scienziati e dunque non riescono a fare quel passo ulteriore di portare queste iniziative sul mercato per farne degli elementi concreti di cui possono beneficiare i pazienti e di fatto il cittadino. E alla fine, quindi, questi sono le criteri che guidano la scelta. È difficile, immagino, scegliere tra 10 progetti, ma per esempio, com'è andata i team dell'anno scorso? Cioè, dopo aver ricevuto il voucher, stati premiati, hanno sviluppato la loro idea? Certo, direi che siamo molto soddisfatti per come è andato l'anno precedente, perché sui 10 finalisti abbiamo già il 60% di questi che si sono costituiti in impresa e dunque hanno fatto partire ufficialmente una startup. La cosa rilevante è che l'80% di queste 10 aziende hanno già raccolto dei secondi o dei terzi round di finanziamenti per degli importi considerevoli. Stiamo parlando di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro e probabilmente non è finita qua. ma la cosa principale è che il 70% di queste aziende hanno già formalizzato delle partnership con altre società per portare i prodotti sul mercato, e il 50% ha già chiuso i primi contratti con i clienti. Dunque, come dicevo prima, è proprio la capacità di trasformare la scienza in qualcosa di concreto per i pazienti e per il cittadino. Allora, in bocca al lupo, intanto ricordiamo come ogni anno anche appunto poi arriverete l'anno prossimo alla terza edizione e via così. In bocca al lupo ai tre vincitori, appunto, Postbiotica, Probiomedica e Caime. Chime o Caime, giusto per capire se sto... Caime. Sì, nella speranza appunto che anche loro riescano a sviluppare i progetti, oltre che ricevere appunto il voucher e vadano avanti, ma mi sembra che quello, quanto accaduto nella prima edizione, sia di buon auspicio. E quindi di nuovo bravi a loro, e grazie a Paolo Marcheselli, appunto, che ha seguito l'intera iniziativa per il gruppo Novartis. Settimo e ultimo discorso della sua presidenza, presidente della Consob Giuseppe Vegas, oggi nell'incontro annuale a Piazza Affari della Consob con il mercato finanziario. Vedo che molti mi chiedono: ma il suo giudizio su Vegas? Insomma, allora, uno può pensarla come vuole. Secondo me la Consob per alcuni aspetti ha male vigilato sulla situazione delle banche. Faccio un Consob e Banca Italia, a mio avviso, hanno anche delle responsabilità, perché le vicende delle popolari sono emerse soprattutto, mi riferisco a Vicenza e Veneto, dopo l'intervento della Banca Centrale Europea, degli ispettori della Banca Centrale Europea, le multe che la Consob ha dato, perché ci sono state anche in questi due casi, sono arrivate negli ultimi mesi. Però insomma, andiamo con ordine, il mio giudizio può contare anche molto poco. Non è un giudizio, diciamo, in cui la Consob, ecco, nella gestione Vegas ha cambiato rispetto alla gestione Cardia, dimostrando di intervenire e scovare quello che veniva successo, una gestione, diciamo, molto così, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Per quello che mi riguarda, per quello che riguarda le multe, sì, è vero che leggo molti SMS su questo. Faccio notare che le multe sono arrivate il 3 maggio da 9 milioni alla Procura di Vicenza per le violazioni commesse dal vertice in testa allora presidente Gianni Zonin tra 2011 e 2015, conclusione di un'ispezione 2015-2016, e poi multe per 22 milioni, 5,8 milioni in realtà al Monte dei Paschi, ma il grosso di queste multe arriva nei 4 mesi, quando insomma i buboni erano già scoppiati. La borsa non è che in questi anni abbia brillato per nuovi ingressi. Nel 2011 c'erano 257 società quotate, nel mercato principale al 31 dicembre scese a 234. Procede però il progetto Più Borsa, che ha visto il successo di tante società nel segmento elite. Questo va dato atto che è un successo anche della borsa italiana. Non so chi sarà il successore, vedo molte domande che stanno arrivando, però andiamo con l'intervento di Vegas, il quale si è concentrato, e devo dire, vabbè, soprattutto su l'Italexit, un'eventuale uscita dell'Italia dall'euro, sarebbe uno shock per l'intera area euro. E poi ha detto: attenzione, l'Italia si prepari a una stretta monetaria, perché l'inflazione si sta progressivamente portando al 2% che vuole la BCE, e quindi i tassi non resteranno a zero per lungo tempo. Con le sue scelte la BCE ha contribuito in modo determinante a scongiurare il rischio di disgregazione dell'area. Ha concesso tempo per attuare le riforme necessarie ad adattarci all'ambiente della moneta unica. Con ciò ha ridotto la pressione su quei paesi come il nostro che più di altri avevano bisogno di recuperare terreno sul piano della competitività, della stabilità e della convergenza. Questa opportunità purtroppo non è stata colta appieno. L'inflazione si sta progressivamente riportando in prossimità dell'obiettivo del 2%, mentre negli Stati Uniti è già in corso un inasprimento monetario. L'Italia dovrà prepararsi ad affrontare la nuova situazione che si profila, non potendo più contare sul puntello esterno della leva monetaria. In una prospettiva di medio termine, la coesione dell'Eurozona può scaturire infatti soltanto dall'intrinseca convergenza macroeconomica dei Paesi membri. La politica monetaria non può e non deve svolgere un ruolo improprio di supplenza. Il presidente della BCE, Mario Draghi, ce lo ricorda di continuo. E qui c'è la mia prima riflessione. Adesso, nel notare le varie dichiarazioni di Vegas oggi, noto che, insomma, sì, poi ha parlato anche degli NPL, dei crediti non esigibili in pancia alle banche, non devono essere svenduti. Vediamo se riesco a dirla bene. Mi sarei aspettato, mettiamola così, che nell'ultima relazione dopo 7 anni di presidenza ci fosse anche un pochino di autocritica, ma devo dire che nemmeno la Banca d'Italia ci ha mai abituato a questo, a fronte di 2 anni, 3 anni da cui veniamo, che si sono contraddistinti per l'esplosione e il fallimento di fatto salvata dallo Stato del Monte dei Paschi di Siena, le operazioni Alexandria e Santorini erano operazioni sui derivati, l'esplosione delle 4 banche, Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, pure lì la Consob nei prospetti aveva fatto mettere il carattere rischioso della sottoscrizione, oltre 12.000 risparmiatori infatti pensavano di aver comprato le classiche obbligazioni bancarie senza rischio e invece si sono ritrovati in mano una cosa diversa con il bail-in che viene criticato oggi da Vegas. Però un conto è criticare, un conto è sapere che c'è una legge di carattere europeo e devi chiedere per esempio prospetti ancora più chiari, i famosi scenari probabilistici, cioè quante possibilità hai in maniera molto chiara per qualunque tipo di risparmiatore di perdere i soldi che metti nell'obbligazione bancaria. E poi vado su parlare di Vicenza e Veneto Banca. Allora, io ho una riflessione su quello che è successo, su quello che la Consob non ha visto, poi non poteva vedere tutto quello che vuoi, ma devi farla. Non puoi parlarmi dei tassi di interesse, dell'Italia Exit, non sei mica Draghi, cioè, no, tanto voglio dire, i rapporti tra me e la Consob non sono mai stati boh. Però dico, e questa è la nota che faccio, va benissimo parlare dei massimi sistemi, ricordiamo anche che cosa non ha funzionato nei meccanismi di controllo e vigilanza, visti gli anni disastrosi che abbiamo alle spalle, anche nella gestione Vegas, non che l'abbia fatta lui, però insomma, se sei l'autorità di vigilanza non puoi cavartela dicendo semplicemente sono in arrivo nuove sanzioni sulla Popolare di Vicenza e poi in generale il bail-in ha creato più danni, si è rivelato un fattore di instabilità. Capito, tutto qua? Traffico. Focus economia. Le modalità concrete di attuazione del bail-in hanno introdotto elementi fortemente distorsivi. In particolare si è rivelata infelice e poco ponderata la scelta di adottare la nuova disciplina con effetto retroattivo. È una scelta che contrasta con i principi di fondo del diritto. Va corretta quanto prima. In tale quadro andrebbe riconsiderato anche il coinvolgimento degli obbligazionisti, ad esempio introducendo una soglia di salvaguardia a 100.000 euro analoga a quella prevista per i correntisti. Il bail-in ha anche ridotto, fin quasi ad azzerarlo, lo spazio di manovra della vigilanza preventiva. È stata modificata con un tratto di penna la natura di strumenti finanziari, come è il caso delle obbligazioni subordinate, strumenti emessi e collocati anni prima in un contesto di regole di mercato del tutto diverso, talvolta addirittura prima del fallimento del settembre 2008 della nota banca d'affari americana Lehman Brothers. Prodotti a basso rischio, presenti nel portafoglio di tanti piccoli risparmiatori, si sono trasformati di colpo in prodotti rischiosi e inadeguati. Il primo e provvisorio bilancio dell'applicazione del bail-in non può certo dirsi positivo. Le stesse regole che l'Europa si è data per assicurare stabilità si sono rivelate in questo caso un fattore di instabilità. Alla prova dei fatti, l'idea di circoscrivere ai soli investitori di una banca i costi del salvataggio si sta mostrando illusoria. Su questo personalmente sono d'accordissimo con Vegas, e cioè che il bail-in per far contenti i tedeschi, ricordate la vicenda di Cipro, ed è lì che nasce il progetto, cioè dire prima di usare soldi pubblici le banche devono sapere che pagheranno gli azionisti, gli obbligazionisti senior, quelli junior, i correntisti sopra i 100.000 euro, ha creato in realtà più danni che altro. E sono d'accordo con l'ultimo passaggio di questa dichiarazione, anche perché è spesso inapplicabile, cioè quando la banca ha un profilo, come la maggior parte delle banche hanno un profilo sistemico, tu non riesci a farla fallire, basta, diciamocela tutta, hai i soldi dei risparmiatori, quindi è un'idea così scritta sulla carta, appunto, tipica degli euroburocrati. Però ripeto, siamo sempre sui massimi sistemi, va bene, ci mancherebbe. Qualcuno mi scrive: guardi che la Consob non ha nemmeno visto quanto capitava al Sole 24 Ore. Sì, guardi, lo so anch'io che c'è un'inchiesta della Consob sul Sole 24 Ore, che è società quotata, e che sulla precedente gestione e i dati diffusi dalla precedente gestione. Stavo parlando della Consob sulle banche perché mi sembra che leggermente coinvolgesse qualche decina di migliaia di persone in più, viste le banche che avevo citato. Comunque, da Consigli Vegas oggi anche sulla fretta, che è una cattiva consigliera per le banche quando devono collocare, vendere i non performing loans, ossia i crediti inesigibili. Dice Vegas: attenzione, se lo fai con la fretta rischi di svenderli, non di venderli. I fondi avvoltoio sono già lì, avvoltoio lo aggiungo io, fondi interessati all'opportunità sono già lì. Quanto più il valore dei non performing loans viene abbattuto, tanto più scava voragini nei bilanci e quindi indebolisce le banche e genera profitto per chi se lo compra. Voi sapete come funziona: se io vanto un credito nei confronti del soggetto X a cui ho prestato i soldi come banca, gli ho prestato 100 euro, adesso magari in bilancio ne ho 40, cioè lui so che non me li ridarà più, ma penso tutti i 100, ma penso di poterne ottenere 40. Se il fondo avvoltoio me li offre a 20, a 25, se ho fretta posso anche accettare, dopodiché devo mettere altri 15 in minusvalenza e vado a svenderli, questo è il rischio, generando maggiori sofferenze per la banca e un grosso guadagno per il fondo che li compra. La ristrutturazione del sistema bancario è resa più difficile dal carico dei crediti deteriorati. Le autorità europee premono per trovare una rapida soluzione, ma la fretta potrebbe rivelarsi una cattiva consigliera. L'impatto dei non performing loans, i noti NPL, sui bilanci delle banche si riduce quanto più si allunga l'orizzonte temporale della loro gestione. Per gli investitori specializzati, l'operazione presenta margini di redditività che salgono se aumenta la pressione a vendere. Un approccio oculato dovrebbe prevenire il rischio di svendita di questi asset. Quanto più il valore degli NPL viene abbattuto, correlativamente scavando voragini nei bilanci da riempire con risorse aggiuntive sottratte al credito, tanto più aumenta il profitto di chi acquista a prezzi stracciati per poi rivendere con plusvalenze. Il mercato internazionale segue la partita con attenzione, forse non disinteressata, fiutando il grande affare. Le banche italiane hanno la capacità e le risorse umane per gestire al proprio interno questo processo senza ricorrere a soluzioni che andrebbero a esternalizzare il lucro a beneficio di altri. No, rispondo agli ascoltatori. Se mi chiedete se ho visto dall'agenzia una posizione netta di Vegas su quanto è capitato alle banche e alle crisi bancarie, no, non l'ho vista. Ha chiesto una Consob unica europea a fianco della Banca Centrale Europea, anche questo assolutamente se ne parlò molte volte, può essere più che corretto. Ha anche suggerito alcuni correttivi sul voto di lista e delega il voto per le società quotate. Ha detto che nella disciplina dell'offerta pubblica d'acquisto c'è un problema di asimmetria e di mancanza di reciprocità, però insomma, ripeto, un po' di delusione, poi magari sono io che mi illudo. Nell'ultima sua relazione da parte mia c'è, allora vediamo così, vi faccio ascoltare questo passaggio in cui, da quello che abbiamo ascoltato, può essere preso, diciamo, come l'ascito, legacy del suo mandato, dei 7 anni di suo mandato, appunto come ultimo discorso di quello che sta per essere ancora per poco presidente, che sta per non essere a breve più presidente della Consob. Sentiamo. Veniamo da anni lunghi e difficili. Questa volta però non si tratta solo di un ciclo economico particolarmente negativo, ci troviamo di fronte a un nuovo mondo rispetto al quale non abbiamo ancora elaborato adeguati canoni interpretativi. Sappiamo che è impraticabile la strada di un semplice ritorno al passato e che non è più garantito a tutti quel benessere che sembrava una conquista intangibile. Viviamo in una fase di incertezza e l'incertezza genera paura. Ma come ci ricorda Euripide, nulla deve essere inaspettato, si deve invece sperare ogni cosa. È il momento di costruire il futuro. Le nuove tecnologie e i nostri giovani talenti possono rimettere tutti nelle stesse condizioni di partenza e riaprire i giochi. È un'occasione che non si può perdere. Dovremo affrontare questa sfida nello stesso modo con cui abbiamo vissuto gli anni difficili, senza certezze ma senza tentennamenti, facendo esclusivo richiamo alla nostra cosciente volontà e applicando di fronte all'incognito il principio del filosofo di Königsberg, der bestimmte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Cosa devo aggiungere? Euripide, Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Attenzione, sta parlando, diciamo, una lezione magistralis. È l'intervento del presidente della Consum. Allora, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me e la legge degli uomini con le banche e i diritti dei risparmiatori? Vegas. Che cavolo, no? Ma almeno qualcosa di più prosaico, mi rendo conto che siamo un po' prosaici, ma tra Euripide e Kant vorrei anche parlare della signora Maria ad Arezzo, o a Chieti, o a Ferrara, o a Vicenza, o a Treviso, o a Siena. Va benissimo il cielo stellato, va benissimo la legge morale dentro di te, il cielo stellato sopra di te, però c'è anche, diciamo, il buio davanti per i risparmiatori che non hanno visto nulla dopo gli investimenti fatti, Oppure posso anche interpretarla così: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me e nessuno fuori di me a tutelare i miei diritti e a fare delle inchieste chiare, mandare gli ispettori in maniera chiara, dare le multe, non tutte, diciamo, a maggio, aprile del 2016, quando ormai i buoi erano ampiamente scappati e avevano sopra di loro le stelle e dentro di loro pochissima legge morale. E va bene. Ed è veramente tutto, altro non voglio aggiungere, perché insomma comunque è sempre la Consob. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, libera la voglia di fare.